Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Imbecille! Cretino! E vuole solo pigliare lo stipendio! E io pago! E io pago! Non vogliamo che lo sport sia utilizzato come pretesto per ulteriori colate di cemento sulla città. No alle Olimpiadi del mattone. Assolutamente no. Con queste Olimpiadi, di fatto, con le Olimpiadi, quello che si chiede è di assumere altri debiti. Noi non ce la sentiamo, sinceramente. Tuttavia, nel 2012, quando Monti disse che non potevamo permetterci le Olimpiadi, quella fu considerata una posizione responsabile. Oggi, a 4 anni di distanza, nonostante i dati macroeconomici siano evidentemente peggiorati, le Olimpiadi sono diventate un affare. Questo è un danno alla credibilità. La credibilità italiana, cioè, noi siamo a pezzi da questa storia se non ci dovesse essere, diciamo, un passaggio diverso da quello di oggi. Invito chiunque a non dare, diciamo, interpretazioni diverse, perché non ci stiamo rendendo conto il danno che facciamo per le future generazioni. Adesso, Malagò, io capisco la rabbia, capisco il livore, capisco la delusione totale, capisco anche il fatto che mentre sei andato a incontrare Virginia Raggi, il sindaco nel frattempo era a gustarsi una matriciana con l'assessore al traffico Meleo in un ristorante vicino a Stazione Termini, per la precisione la Cucina Romana da Dino. Capisco tutto, ma il no alle Olimpiadi, un danno alle future generazioni del paese. Ecco, magari facciamo un danno alle future generazioni del paese se non diamo loro lavoro, se non diamo loro prospettive di crescita, se non diamo un'economia solida, se non diamo, non lo so, tutte quelle, il welfare, tutte quelle occasioni che permettono di vivere e costruirsi una famiglia, chi lo vuole, comprarsi una casa, fare figli. Ecco, però le Olimpiadi, mi dispiace, insomma, sono una bella cosa, ma danno alle future generazioni. L'ha presa male Malagò, l'ha presa male. Chissà se legge oggi La Stampa, pagina 3, quel satanasso di Iena. Dai, caro Malagò, l'importante è partecipare. E beh, insomma, decubertiniana, no? Come la Iena di oggi, decubertiniana. Signori, buongiorno, alle 6:34 minuti. Allora, Virginia Raggi, con un tono sinceramente un po' dimesso dal punto di vista comunicativo, forse deve prendere qualche lezione, perché sembrava recitare un po' una poesiuola di Natale. Comunque, il sindaco di Roma ha detto no alle Olimpiadi del mattone. Ma la Go fa sapere che abbiamo già speso 14,5 milioni pubblici di soldi pubblici in base a una delibera dell'allora giunta Marino, e quindi fa adombrare il sospetto che adesso questi soldi a qualcuno potranno essere chiesti. Indovinate a chi? A chi firmerà la delibera per fare un passo indietro, quindi al Comune di Roma. Allora, 6:35 minuti. Cari, siamo qui a 24 mattino, c'è Lorenzo Nespoli in redazione, c'è Peter Bescapè in regia, c'è intanto Vincino che voglio salutare. Buongiorno Vincenzo, come stai? Bene. Benissimo. Allora, sei felice? Tu per quello vedere... è stato mezz'ora, 37 minuti ad aspettare. Che cosa? È una cosa insopportabile. 37 minuti ad aspettare. La matriciana. La matriciana. No, quella è una maleducazione, una piccola maleducata. Ah, non è. C'è il CONI, là, tutto lo sport italiano, e tu te ne fai, rimani là a mangiare, la ad aspettare, e poi vai e leggi un cosettino. Ma là, cos'è? Com'è Dino Cucina Romana? Lo conosci? Dino Cucina, no, non lo conosco. non lo conosco. Fa buona i bucatini? La gricia è buona? La gricia è buona. Non ho idea, non è, sono tra i miei gusti. Insomma, comunque. Vabbè. Caro Vincino, qui abbiamo un nuovo ingresso. Un nuovo ingresso al Parlamento è l'onorevole, anche ex assessore del Comune di Roma, Stefano Esposito. Siamo in campo Partito Democratico. Buongiorno Esposito, come sta? Buongiorno, bene. Benvenuto al Parlamento, qui si può dire quello che vuole, Va bene. Va bene? Vuole subito iniziare a dire qualcosa contro la Raggi? No, ma non, guarda, a parte la maleducazione istituzionale, ma detto questo, chi se ne frega, cioè ognuno si sarà pulita la bocca, comporta, al tovaglione. Vive il ruolo istituzionale che gli è stato assegnato, come meglio crede. Se lo poteva risparmiare, perché sono quei gesti che non servono a niente, ma per il resto anch'io penso che adesso non bisogna neanche esagerare con l'eccesso di retorica i danni alle future generazioni. È un po' troppo. Sì, ma non serve, cioè bisognerebbe stare un po' sul merito, sì, delle questioni. Poi, per carità, devo dire che ieri ho letto un bellissimo tweet del vice direttore del Corriere della Sera, quando diceva? Ha detto: ma la Go, mai nessuna donna aveva fatto aspettare 37 minuti. E credo che sia questo, diciamo, la cosa che effettivamente forse l'ha fatto per quello. Virginia Raggi, sì. Ah sì, sei un tombeur de femme, e io ti faccio aspettare 37 minuti. Forse è quello, no? Però dai, immagino che il presidente Malagò abbia poi capito che, essendo 20 minuti prima della conferenza stampa, sì, convocata alla Raggi, ma è stata fatta apposta, cioè la classica cosa, poi con la foto fatta circolare che stava a mangiare la matriciana, è proprio una roba di comunicazione, no? Un po', no? No, beh, ma credo che quella foto lì non l'abbia fatta circolare lei, no? Lo so, però lei sia scappata, anche perché lei, sai cos'è, che quella cosa che mi colpisce, però, è che c'è una certa tendenza alla bugia, sì, no? Sì. Alla carta da parte un po' della Raggi, perché bastava dire avevo un impegno, una riunione a pranzo con l'assessore, sì, che si è prolungata. Invece in conferenza stampa ho avuto un contrattempo. Si vede che la matriciana è rimasta un po' sullo stomaco adesso. Vabbè. Comunque apriamo il Parlamento perché... Allora ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene. Caro Vincino, oggi ritrae in prima pagina del Foglio Santo Malagò, che gioca con i 5 cerchi olimpici. Cosa fa? Li butta in aria? Non gli è riuscito. No, la cosa di avere questi 18 milioni, come li aspetti? Quanti delegati CIO in giro per il mondo se l'ha già comprato? Tutti questi farsi ridare i soldi indietro è un bel disastro. No, no. Vai a prendere quello del Kazakistan, quello della Guinea Bissau, quell'altro, no, quelli con pochi, perché erano così sicuri di andare bene? Perché erano comprati un po' di delegati. Vincino scherza, se fa satira, sport olimpico, abbassiamo il livello, continuiamo a parlare allora di sesso e di Malagò, il livello come abbiamo fatto prima. Quindi tu dici questi 14 milioni e mezzo, non 18. Certo, spesi in lobbying, comunicazione. Lobbying vuol dire accattarsi persone. accattarsi verso le... Mamma mia, ragazzi, mi mette subito in difficoltà, caro Vincino. No, vabbè, comunque, se... ma siete felici o no? Cioè, proprio da italiani, dai, Vincino, tu vivi a Roma. No, no, in... sei contento o no di non vedere la corsa delle bighe, il salto delle buche? Io ho visto quella del 60, no? Sì. Che erano belle, cioè, non è che io da Palermo sono passato a Roma così per vedere per l'estate, per... assolutamente, erano belle. Però come io, cioè io non capisco questo ritorno, non so, Parigi ritorna a Parigi, Roma ritorna a Roma, Los Angeles ritorna a... Dove devi fare? Dove devi fare? A Mondello? Ma no, in Sicilia, le Olimpiadi siciliane, stupendo, no? Tra Palermo, Catania, Messina, anche Malta, ci mettiamo così, li facciamo più internazionali. Beh, c'è un po' di fantasia nella vita. Dove le faranno invece? A Los Angeles forse le faranno, anche lì nell'84, già fatte, una roba banale. Ma l'avevano fatte già due volte allo stesso. Vabbè, ho capito, non te ne frega niente, non ti piace il ritorno, quindi no. Esposito, è contento o no da cittadino che comunque frequenta Roma? Ha fatto l'assessore lei al traffico a Roma, si immaginava l'assessore al traffico durante le Olimpiadi, da impazzire. Ma io l'avrei... No, io sono... Penso che le Olimpiadi avrebbero fatto bene a Roma. E quindi penso che sia un errore. Dopodiché, soprattutto perché vorrei ricordare che c'erano 1.700.000.000 a fondo perduto, non da parte dello Stato italiano, ma da parte del CIO. E visto che ha vinto col 67% e che i romani le hanno dato grande fiducia, io avrei saputo come investirli quel 1.700.000.000. Ah, sì? Per la verità lo sapeva, credo, l'assessore Nocemento all'urbanistica della Giunta Raggi, Berdini. Perché ieri ha detto... Berdini era abbastanza... Berdini che è stato, presentato, non è proprio uno di quelli che vuole cementificare Roma, anzi è stato presentato come uno di quelli che voleva combattere il cemento. Ha detto la sfida va accettata con la condizione in cui è Roma, quei soldi ci farebbero comodo per realizzare il nostro programma. Sì. Però sai, il coraggio se non ce l'hai non lo compri al mercato. Non lo compri al mercato. Scusi, loro hanno fatto la campagna elettorale contro le Olimpiadi. Hanno vinto contro le Olimpiadi. E poi dopo un minimo di coerenza. Almeno la coerenza, sì. Cioè, non è che è come una legge elettorale che te la levi, te la rimetti come le mutande, cioè, prima di averle mai usate. Che belle immagini. Io non metto mica in discussione la coerenza. Posso segnalare che il loro assessore, non un pericoloso esponente del PD, un loro assessore all'urbanistica, ha detto noi abbiamo bisogno e possiamo accettare la sfida, sì, è un esterno, per realizzare il nostro programma. Poi hanno deciso così, tra 5 anni i romani verificheranno. Berdini non è proprio uno del 5 Stelle, è un esterno, diciamo, è un urbanista. Ma non lascia adesso il complotto del PD per aver... mandato Berdini all'urbanistica, se la solo scelta e la non vi penso così, ma bravi. Questo, ma comunque no, cioè voi avete già complottato tra di voi contro Marino, cioè io ancora non ho capito per quale cavolo di motivo avete fatto dimettere Marino, no? Ma lui era assessore di Marino, lo saprà lui, come dire, se vuole un pericoloso complotto del PD. Adesso te lo spiega, lui che ha visto le cose dal di dentro, Vincino, sentilo. Quando tu hai un sindaco che invece di dire la verità racconta bugie, per quanto mi riguarda, siccome in politica c'è una cosa, c'è un peccato capitale, raccontare le palle. Ma tutti i politici raccontano bugie. Ma tu che raccontate il PD dal 21 bugie voi? Aspetta. No, io non le racconto. Se qualcuno può dimostrare che ho raccontato bugie nella mia attività politica... Ma che bugie aveva detto sugli scontrini? Ma gli scontrini sono l'ultimo dei problemi. E quali allora? Quale bugie? I temi sono di natura amministrativa. Vi faccio questo esempio. Io sono stato poco meno di 4 mesi e mi occupavo di una cosa di cui non si voleva occupare nessuno. Non hanno trovato nessun pazzo che si cimentasse. Sono andato da lui e gli ho segnalato che i conti di Attac che avevo visto in una settimana erano un po' diversi da quelli che gli avevano raccontato fino ad allora. Mi ha guardato e mi ha detto... Non è così. E gli ho detto, scusa, ma perché mi hai fatto venire qui? Gli ho detto, io mi sono mica qui per tirare le bambole, gli ha detto. Guarda che la situazione... La cosa che mi ha colpito è che non voleva neanche prenderla in considerazione la realtà. Lui passava che gli venisse detto che andava tutto bene. Ma mentiva. Ma passiamo alle bugie, come dire, quelle di scarso profilo. Poi l'apoteosi mediatica per voi è stata quando ha mentito su dove andava a mangiare, sì, con l'ambasciatore Tizio. Dice c'erano menzogne più gravi per lei. Dice. C'erano, per quanto mi riguarda, in politica c'è un elemento. Ah beh, questo ho capito, Vincino, per quello l'hanno... quindi nessun complotto, Vincino. Questo è il dato. Vabbè, però c'è da dire una cosa, sulle Olimpiadi... No, però attenzione Vincino, perché pare che sulle Olimpiadi, almeno in retroscena dei giornali raccontano, sia stato Beppe Grillo il giorno prima, perché Virginia Raggi ha sempre avuto un atteggiamento e pare volesse ancora in qualche modo tenere uno spiraglio aperto, e Beppe Grillo il giorno prima l'ha chiamata, gli ha detto: Virginia, niente scherzi domani, questa storia va chiusa domani. E pare che l'accelerazione sia stata qui, tanto che ovviamente qualcuno già dice è commissariata da Beppe Grillo, dai vertici del 5 Stelle, eccetera. Vabbè, questo è. Ti piace questa lettura, Vincino? No? Ti sento sbuffare, non ti sto no, bene. No, come dire... Com'è che l'ha chiamata una piccola maleducata? Sì, ma sì, una, cioè proprio la, cioè, i 5 Stelle hanno fatto un errore gravissimo a mettere questa qua, no? E quindi non sanno come fare, vabbè, ma questo sono... Problemi nostri. Una incapace totale, posso fare. No, ma infatti per questo almeno Marino era un po' più, come dire, si guardava le cose, sbagliava. Poi quelle sono piccole bugie che uno dice ogni giorno. No, per favore, non è che per vivere nella vita contemporanea, insomma. Vabbè, sta storia comunque è conclusa qui. Dai, dobbiamo andare al traffico. Siamo col senatore Stefano Esposito, con Vincino, state con noi. Ci facciamo i chilometri, superiamo gli ostacoli del traffico. Non volete capirlo che al Parlamento bisognerebbe che fosse impossibile cambiare partito. Ciao Alino, ti saluto dalla Lunigiana. Milan, ma che cosa vuol dire che per revocare un assessore ci vuole una delibera? Milan, su, dai, sveglia! Sveglia, non andare appresso alle minchiate! Peter, pensaci bene, non ti sposare! Noi donne veniamo costantemente umiliate, insultate, sommerse di sconcezze nel web, costantemente. Questo un po' è vero, eh? Questo un po' è vero. Qui abbiamo anche Vincino, un esponente di questa categoria di uomini che trattano, ma no? Io? No. Ma chi dici? Non mi permetterei mai di pensare questo di un onorevole deputato senatore Stefano Esposito del PD, però a te ti conosco abbastanza. No, scherzo, scherzo. Il web è una cloaca aperta, l'importante è non avvicinarsi. Però ragazzi, che siamo un po' nel medioevo, senti qua sul Corriere della Sera questa storia. C'è un vicequestore, si chiama Marilina Giaquinta, che su Facebook, nel suo profilo privato, si è messa una foto con le gambe scoperte, da un po' dal ginocchio in giù. E il collega sindacalista l'ha denunciata al questore per comportamento disdicevole. Ma vi rendete conto? Il medioevo. Siamo nel medioevo. Non sta bene. Ma Esposito, il questore dovrebbe chiamare la Neurodeliri e ricoverarlo. Questo è sindacalista. E ricoverarlo. Esatto. Perché... Senta un po', ma Esposito, ma la Boldrini è così, ci crede proprio questa battaglia? No? No? Sono gli argomenti. No, che ci sia una ragione in cielo, cioè una cloaca, ce l'ho aperto, però se lo frequenti, lo sai. Devi, devi sapere che è così. Tra l'altro ha ragione la Boldrini, ma non è solo nei confronti delle donne. Anche lei qualche insulto ogni tanto se lo becca. No, beh, se vi fate un giro sul mio profilo Twitter, cioè la cosa più gentile che mi dico, ma perché lì bisognerebbe avere il coraggio di fare una cosa che nessuno vuole fare, perché si tocca la libertà. Sì. Bisognerebbe obbligare chi apre un profilo su Twitter o su Facebook a depositare il codice fiscale e la carta d'identità. Beh, non è male questo. Questo è giusto. Questo sono è giusto. D'accordo perché, con lei. No, ma perché almeno in questo intanto semplifichi la vita alla polizia postale quando devi andare a cercare qualcuno. Esatto. Due, sarebbe un pochino più difficile far accedere, ma non perché io voglio chiudere il web. Sì. Magari i ragazzini di 12 o 13 anni, io ho un ragazzino di 12 anni, non si aprono un profilo. E tutti questi troll che si nascondono dietro le immagini più strane solo per insultare chiunque gli passi a tiro, magari andrebbero... No, per esempio Vincino è uno di quelli che nome e cognome dice la sua e insulta, se caso. Noi abbiamo dato possibilità di lettere anonime terribili a tutto il mondo, anonima, prima arrivava da uno a uno, qua sul web arriva da uno a un miliardo, a 100.000 persone, un milione di persone, ed è come dire... pesante, questo è giusto secondo me. È giusto, un bel codice fiscale, magari anche un anticipo di 50.000 euro, così se uno magari ti deve multare, te li detraggo direttamente. Però se vuoi aprire, i gestori di Twitter e Facebook ti chiedono in via digitale, lo si fa in fretta, no? Il codice fiscale, la carta d'identità e poi, no? Se rispondi di quello che scrivi, ma sarebbe un gesto di ordinaria civiltà, di cortesia, tu Vincino, il tuo codice fiscale. Scusa, quando compri un telefonino devi dare il codice fiscale. È esattamente quella la ragione che mi ha fatto venire questo pensiero. Anche una scheda prepagata non te la danno se non capito. La compra di contrabbando, una così. Lì poi c'è il contrabbando. Ma è vero, però, Esposito, è vero, però, che alla Camera avete fatto una legge sul cyberbullismo che ormai è quasi passata, nella quale obbligate una persona a tirar via tutto se scrive qualcosa, per esempio, che mi provoca ansia. Beh, io adesso Vincino per esempio mi provoca ansia certe mattine. Al Senato avevamo fatto un'altra cosa. Sì. C'è una fortissima polemica tra la scelta fatta alla Camera quelle che sono state fatte al Senato, perché in effetti vedi che dobbiamo abolirlo al Senato, cioè, vedi che sono il famoso tacchino felice, quindi ho votato ma il cyberbullismo è vero questa cosa, cioè alla Camera hanno messo tutto quello che mi provoca ansia. Ci sono una serie di norme che esattamente secondo me non vanno esattamente nella direzione infatti al Senato. Io ho una mia collega che si occupa molto seriamente di questo tema ed è molto arrabbiata. Fino a che c'è il bicameralismo cercheremo di farlo funzionare utilmente. Eccola là, cioè hai capito Vincino, non so, dici Totti hai sbagliato questo rigore, vergognati, e Totti ti querela. Perché al Senato ragiona, non c'è una maggioranza, e quindi alla Camera invece, dove c'è un blocco del PD di 300 deputati che vota sempre come dice Renzi, non ragionano. Adesso il povero Renzi ha tante colpe, ma sulle norme sul cyberbullismo non c'entra niente. No, ma io dico, stiamo facendo tutto un casino per togliere il Senato e Vincino che dice cancelliamo la Camera. Devi scombinare, ma le carte in tavola sono tutte pronte, tu sei quello che arrivi. Presenta un disegno di legge costituzionale, Vincino, così. Presenta un disegno di legge costituzionale, devi raccogliere credo 500.000 firme ai banchetti, così ridiamo Vincino di questa tua iniziativa. Tu ogni firma dai una vignetta, ogni firma regala una vignetta, e secondo me ce la fai, si può fare, no? Che dici Vincino, ce la fai? No, va bene. Allora, io voglio salutare Vincino, ci dobbiamo fermare, Stefano Esposito, ricordiamo, Juventino, Doc, capolista, mamma mia. Oh, ma è proprio vero, io sta roba. Esposito, ma sai che tutti quelli che chiamo poi scopro che sono juventini, mi circondo di questa razza veramente un po' balorda. Siamo una grande squadra, siamo ovunque. Siete ovunque, anche ovunque. Soprattutto in testa alla classifica. Questo. Per ora sì. Soprattutto in testa. Facciamo un pronostico, vincete il campionato?